Ah, guarda, ci arrivo dicendoti una cosa. Ho parlato prima di Due Minuti di Mambo, questo format radiofonico, diciamo, che ti ho spiegato di brevi pillole. Questo è stato pensato ormai più di un anno fa, diciamo, ad aprile del 2020, come quasi immediata risposta all'impossibilità di avere fisicamente del pubblico nei nostri spazi. E sicuramente in quel momento la percezione generale, insomma, l'idea di tutti era quella: mi trovo a casa, non so neanche ancora per quanto tempo mi troverò in questa situazione nuova, e cerco di riportare a casa quello che faccio durante tutta la giornata. Quindi la sete, diciamo, la fame di contenuti veloci da consumare continuamente sul proprio cellulare era altissima, e quindi anche noi volevamo inserirci in quel turbinio, in quella frenetica richiesta di contenuti per poter continuare quella velocità che era propria della nostra vita costante in ufficio e di tutti i giorni, anche in una situazione in cui ci trovavamo costretti, diciamo, in casa. Questa situazione è molto cambiata nel tempo, perché tutti ci siamo accorti che questa grande proliferazione di materiali è sempre più rallentata passando i mesi, passando anche la voglia di tutti noi, ovviamente, di essere bombardati di contenuti, di cose spot. Certo. E quindi questo Due Minuti di Mambo necessariamente, dopo un po' di mesi, ha dovuto anche lui ridefinirsi, ripensarsi, trovare una identità precisa in un momento in cui le persone cominciavano, come tutti immagino abbiano provato, a selezionare, a non voler più essere bombardati ogni giorno di contenuti, di catene, di video, di sollecitazioni, ma invece di voler dedicare questo proprio tempo che si stava dilatando in casa, vicino ai propri lavori e con ricari, volerlo scegliere, selezionare, avendo contenuti anche più approfonditi. Quindi se la prima parte dei Due Minuti di Mambo fu anche veramente veloce, tutti i giorni alle 3 creiamo attesa, la gente deve pensare che il museo è vicino, è attivo, li bombarda, e abbiamo parlato con persone di molto diverse, quindi da artisti come Ragnar Kjartansson, Ed Atkins, Francesco Vezzoli, molti artisti che abbiamo in collezione, da quelli più storicizzati come Sergio Lombardo fino ai giovanissimi come Favelli, Luca Francesconi, Alberto Tadiello, Claudia Losi, tantissimi artisti che hanno opere in collezione, che hanno raccontato la propria opera, le proprie esperienze, fino ad arrivare a ospiti come Bergonzoni, Federico Poggi Pollini. Abbiamo avuto anche persone sì, spazio, che arrivavano ho letto da spazio, ambiti sì. diversi. Questo è successo ed è andato avanti, e ancora va avanti con, diciamo, una cadenza meno regolare per moltissimi mesi. Ma dopo l'estate, con quel rallentamento di cui pensavo, abbiamo creduto che i Due Minuti di Mambo dovessero essere riformulati, dovessero prendersi un loro spazio e un loro tempo diverso, e da questa necessità sono nati Due Minuti di Mambo estesi. Okay. E quindi già nel titolo lasciano intendere come prendi tutto tempo, insomma. Certo. Sono Due Minuti di Mambo, ma sono estesi, hai bisogno di voler dedicare a questa cosa un quarto d'ora, mezz'ora. Sì. E sono dei video che carichiamo con una cadenza anche regolare, ne carichiamo 3-4 al mese, e sono dei video, invece, delle video interviste più approfondite con i protagonisti della storia del sistema dell'arte a Bologna negli ultimi, appunto, 40-50 anni, in una sorta di archivio in perenne aggiornamento sulla storia del museo, sulla storia dell'arte a Bologna, con interviste con i protagonisti, con coloro che hanno diretto il museo, con coloro che sono stati testimoni degli eventi più importanti di questo importantissimo periodo per lo sviluppo della nostra istituzione, per lo sviluppo anche culturale di Bologna. Quindi è il museo che in qualche parte, in qualche modo, indaga sulle proprie origini, dà la parola a coloro i quali hanno fatto la storia di quel museo, creando quindi una coscienza collettiva su che cos'è il museo, che cosa rappresenta, che cosa ha fatto, e quindi legittimando in qualche modo, facendo intravedere quali sono le strategie che questo museo può mettere in piedi per andare avanti. E tra i protagonisti di queste interviste ovviamente ci sono molti ex direttori del museo, come Gianfranco Maraniello, Danilo Ecker, e al persone che hanno lavorato all'interno del museo come curatori, come Andrea Vigliani. C'è una bella intervista con Silvia Evangelisti, che è stata direttrice di Arte Fiera per molti anni, facendo grande interazione e networking in città e soprattutto con la Galleria d'Arte Moderna e poi Mambo. C'è un'intervista molto anche divertente con Renato Barilli, che racconta della Settimana Internazionale della Performance, con il retroscena delle famose performance come quella celebre imponderabilia di Marina Abramovic e Ulay nudi di fronte alla porta della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, ecco, nel 1977, con lui che racconta dietro le quinte, racconta cosa aveva dovuto fare per ottenere i permessi per fare quella performance e che cosa è successo subito dopo, perché pochi sanno che quella performance durò solo 2 ore, perché poi intervennero i carabinieri portarono via gli artisti e sequestrarono loro i passaporti. Diciamo che queste storie sono i mattoni e sono le basi, le fondamenta su cui oggi agisce e opera il museo. E quindi pensiamo che per un museo in questo momento anche di riflessione e di ridefinizione identitaria, sia giusto gettare le basi.